dividersi il corteo più verso la strada, così a un certo punto abbiamo udito delle urla, abbiamo visto una carica della polizia, quindi siamo fuggiti anche noi via, insomma, impauriti chiaramente da questa carica. Poi ora siamo arrivati in piazza, la situazione sembra più tranquilla chiaramente, però insomma vediamo dalla piazza alla nostra destra delle colonne di fumo che si alzano e non sappiamo precisamente di che cosa si tratta. Ok, quindi in questo momento tu sei in piazza, diciamo? E ora sì, siamo ritornati in piazza, esattamente. Va bene. Appunto. Ok, infatti le notizie che ci arrivano anche da Onda Rossa, insomma, sono che c'è un po' di parapiglia in fondo, appunto, qualche carica, quindi appena avete altre informazioni fateci sapere, d'accordo? Ok, ok. Ciao. Grazie mille, a dopo. Ciao. Ciao.